l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo su Radio Libriamoci Web. Io sono Lucia Cappellucci e questo è l'eco del silenzio. Ora che abbiamo stabilito le coordinate, passiamo immediatamente alle notizie. Anche perché questa settimana sono particolarmente dense e il tempo è sempre lo stesso. La prima notizia mi permette di tornare sul tema della violenza di genere, di cui vi ho parlato anche la settimana passata, dopo la più o meno falsa notizia dello stupro di gruppo depenalizzato. Aggiungiamo un altro tassello, da www.ingenere.it. Violenza contro le donne. Cosa facciamo in concreto? Di Francesca Molfino, del 9 febbraio 2012. Una miriade di fatti di cronaca orrendi, un discorso pubblico ad alto impatto emotivo. Ma cosa fare nel quotidiano per contrastare la violenza sulle donne? Quali risorse, quali strutture ci servono? Una lettera da un'operatrice ed esperta dei centri antiviolenza invita a passare dalla propaganda alla politica. Care amiche, da più di 20 anni mi occupo della violenza contro le donne e lavoro con i centri antiviolenza. Di solito si parla molto di violenza in occasione di uccisioni di donne per mano di uomini violenti, quando per qualche giorno il discorso sulla violenza sale alla ribalta, come è successo negli ultimi giorni per il tentato omicidio della compagna e uccisione del figlio per mano di un uomo a Roma, e anche in occasione della sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro di gruppo. Mi piacerebbe che i nostri discorsi intorno alla violenza, soprattutto quelli di rivendicazione politica, riuscissero ad avere uno sguardo profondo, che rispetti il lavoro di tutte le donne e gli uomini che lottano quotidianamente contro la violenza sulle donne e che sappiano dire, e quindi rivendicare, cose sensate e concrete. Spesso si parla di violenza e quando ne parlano le donne che fanno politica, i toni sono veementi e le affermazioni generiche, e a volte anche errate. Questi discorsi hanno il pregio di far conoscere dove può giungere lo svantaggio sociale femminile. Mi spingono a partecipare, ma dall'altra non mi fanno capire come si può intervenire. Mi rendono immobile davanti all'orrore, oppure mi fanno iniziare da capo, dall'ABC, dalle affermazioni più generali. La propaganda non è una cosa necessariamente brutta. Andando a vedere cosa significa propaganda su Wikipedia, il riferimento più semplice trovo: l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre a specifiche attitudini e azioni. I propagandisti cercano di cambiare il modo in cui la gente comprende una questione o una situazione. Ciò che rende la propaganda differente da altre forme di controllo è la volontà del propagandista di cambiare l'orientamento delle persone attraverso l'inganno e la confusione, piuttosto che tramite la persuasione e la comprensione. La propaganda, come diceva uno psicanalista, è così attraente perché offre significati, soluzioni semplici e sicure, ribalta i pensieri sfiduciati e depressi in euforici, suscita l'entusiasmo di una soluzione, da una spinta iniziale. Ma poi bisogna reggere le complicazioni e le smentite delle applicazioni di ciò che viene proposto. Dalla propaganda sono passata alla politica, cercando, anche se è stato arduo, una definizione larga e mi è sembrato che potesse andare bene questa. La politica consiste nella scelta degli obiettivi comuni che un gruppo vuole raggiungere e nella scelta dei mezzi e dei metodi per raggiungerli. Senza dubbio la propaganda favorisce la politica in modo benefico. Mi turba però quando l'aspetto propagandistico si ripete nel tempo e sembra non tenere conto dell'usura di quanto va dicendo e del fatto che l'ipersemplificazione dei concetti espressi si afferma a scapito della descrizione dei fatti. Ritorniamo alla violenza. Il rischio è che esista un discorso massimalista e stereotipato, sempre uguale a se stesso, che diventa il discorso sulla violenza contro le donne, da tirare fuori all'evenienza. Un discorso che impatta la sensibilità delle persone, ma non dà strumenti per agire cambiamenti. Allo stato attuale, cosa succede oltre l'orrore? Ossia, cosa succede alle operatrici che da più di 20 anni contrastano nel quotidiano il fenomeno della violenza contro le donne? Ecco alcuni dati. Nel 2010, più di 10.000 donne si sono rivolte per la prima volta a un centro antiviolenza. Nell'84% dei casi di maltrattamenti, violenze psicologiche, stalking, violenze economiche e sessuali, ad agire violenza contro le donne sono i partner o gli ex partner. Un'indagine del Coordinamento Nazionale dei Centri Antiviolenza DIRE rileva come il più del 60% dei 56 centri che hanno fornito i dati vive una cronica mancanza di risorse economiche che si traduce in una mancanza di servizi. molti centri per esempio sono basati sul lavoro volontario o semivolontario e non riescono a garantire un orario di apertura quotidiano o una reperibilità telefonica 24 ore su 24. I centri antiviolenza non sono un servizio garantito e universale, regolato su una scala, numero di abitanti, province, regione, ma la loro esistenza dipende o dalla volontà degli enti locali o dalla presenza sul territorio di un'associazione di donne che ne apra uno. In mancanza di un quadro legislativo nazionale di riferimento e di supporto finanziario ai centri antiviolenza, la possibilità alloggiativa, la presenza di personale formato e retribuito e spesso la loro stessa esistenza si affida così alla contrattazione locale fra istituti e associazioni, alla loro possibilità di collaborare e interagire. L'ente pubblico, comune, provincia, regione, è diventato spesso fonte principale di finanziamento. A volte può anche essere secondario rispetto ai contributi di privati, a forme di autofinanziamento e al lavoro volontario. L'8% di questi centri non dispone di alcun contributo economico pubblico. La loro esistenza è pertanto garantita esclusivamente dall'apporto e dalla capacità di raccolta fondi delle socie. In 5 regioni italiane non è presente alcun centro antiviolenza: Valle d'Aosta, Piemonte, Umbria, Molise e Basilicata. In 4 regioni in una provincia autonoma, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e provincia autonoma di Trento, i centri antiviolenza presenti non hanno la possibilità di alloggiare temporaneamente la donna e i figli minori. In altre 5 regioni italiane, la situazione appare piuttosto ibrida. 3 centri antiviolenza sono presenti in Campania, tutti con possibilità di alloggio, 3 centri in Sicilia, di cui uno con capacità di alloggio, mentre un centro antiviolenza con capacità di alloggiare temporaneamente le donne vittime di violenza e i loro figli minori è presente in Veneto, in Liguria e in Sardegna. I dati sono tratti dal sito Dire. L'ex ministra Carfagna, dopo aver fatto il piano nazionale antiviolenza, è stata costretta alla fine del suo mandato, poiché la Corte dei Conti aveva approvato il piano nazionale alla pressione dei Dire, ad utilizzare i soldi che sembravano scomparsi e di cui avevamo già parlato. Le azioni per il contrasto alla violenza e per il rafforzamento della rete di tutela delle vittime sono state finanziate con oltre 18,6 milioni di euro. È stato previsto il finanziamento da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità per 10 milioni di euro ai centri antiviolenza che accolgono le donne vittime di abusi. Di questi 10 milioni, 6 saranno destinati a interventi per ampliare il numero di servizi offerti alle vittime a rischio grave, mentre i restanti 4 milioni di euro consentiranno l'apertura di nuovi centri a carattere residenziale nelle aree dove è maggiore il gap tra la domanda e l'offerta. Il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità potrà, al massimo, essere pari al 90% del costo totale previsto per la realizzazione della proposta progettuale presentata. Il centro, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento pari almeno al 10% del costo totale. Nei centri antiviolenza di molte città non c'è una disponibilità finanziaria per accedere ai finanziamenti, soprattutto quelli che per anni si sono retti grazie al lavoro volontario, si trovano in grande difficoltà. Quindi si devono rivolgere agli enti pubblici, che a seconda dei loro orientamenti politici, oltre che dei loro bilanci, saranno disponibili ad accollarsi la parte economica e in seguito a finanziare la continuazione delle attività promosse dal finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità. Successivamente è stato pubblicato l'avviso per la formazione degli operatori sanitari che svolgono attività di prima accoglienza alle vittime di violenza sessuale, domestica e stalking, per il valore di 1,7 milioni di euro. In questo caso, il contributo delle pari opportunità è pari all'80% e il centro o chi si propone insieme ad esso dovrà garantire un cofinanziamento del 20% per i soldi erogati, che non supereranno i 100.000 euro. Anche in questo caso è stato difficile per molti centri con scarse risorse di partecipare al finanziamento. Questi importanti finanziamenti daranno la possibilità di andare avanti se si potrà accedere ai fondi, ma servono misure efficaci da parte degli enti locali volte ad assicurare finanziamenti costanti nel tempo per garantire il funzionamento e l'apertura di nuovi centri e aumentarne così il numero. Ricordiamo infine che nel piano nazionale fatto da Carfagna veniva affermato un generico sostegno ai centri antiviolenza, senza specificare quali fossero i criteri che le definiscono, includendo tra i soggetti individuati per garantire l'incolumità alle donne generiche strutture pubbliche e private, alle quali non viene chiesta neppure un'adeguata formazione del personale. Ne può derivare, per esempio, la possibilità che i fondi vengano elargiti a non ben identificati soggetti proposti all'accoglienza delle donne, con la conseguenza di uno svilimento e disconoscimento del ruolo peculiare e unico dei centri antiviolenza. Qui non si tratta di liberalizzare, ma di capitalizzare la grande esperienza che i centri hanno nell'affrontare l'enorme e drammatico problema del maltrattamento e della violenza. Come trasformiamo quello che dicono i manifesti sulla violenza contro le donne in azione nel reale? Come si può fare politica di donne nel senso di scelta di obiettivi comuni, dei mezzi e dei metodi per raggiungerli che un gruppo vuole raggiungere per contrastare la violenza? Ricominciamo ogni volta da capo o lavoriamo in continuità con le esperienze che esistono già? Favoriamo i centri antiviolenza e se lo facciamo, come pensiamo di dare continuità e stabilità? Vorrei che si potesse costruire un cammino segnato da domande puntuali e tappe precise. Vorrei rintracciare le disponibilità delle donne che lavorano in ogni regione per convogliare tutte le risorse a disposizione, per costruire dei collegamenti, per radicare le collaborazioni tra i diversi attori sociali, senza più divisioni di enti pubblici, di province, regioni, comuni e così via. Vorrei, insomma, avere delle risposte concrete insieme politiche da chi vuol fare politica. L'eco del silenzio. Silenzio. Parliamo ora di disabilità e di vita indipendente, con due articoli differenti. Nel primo potrete ascoltare il vissuto, grazie a Franco Bonprezzi. Nel secondo faremo un po' di chiarezza sui dati, grazie a un articolo di Gian Antonio Stella. Da Francamente, il blog senza barriere di Franco Bonprezzi, su www.vita.it. Elogio dell'indipendenza, del 10 febbraio 2012. Mai come adesso, che sto lentamente riprendendo possesso del mio corpo e del suo funzionamento. Mai come adesso, che riesco faticosamente a muovere senza dolore gambe rattrappite dalle fratture e dall'immobilità durata più di 3 mesi. Mai come adesso, che sperimento da vicino l'utilità preziosa di un assiduo e discreto servizio di assistenza domiciliare, che mi consente, comunque, una vita quasi normale. Mai come adesso, credo di capire perché è giusto e doveroso battersi, perché alle persone con disabilità, a prescindere dal livello di autosufficienza, sia assicurata la possibilità di costruire attorno alla propria esistenza un progetto plausibile e sostenibile di vita indipendente. Vedo infatti con crescente preoccupazione diffondersi la tendenza socioculturale a togliere alla famiglia e alla persona i gangli decisionali rispetto a presente e futuro, attraverso riorganizzazioni dei servizi e delle prestazioni, che partono sempre e comunque da valutazioni di carattere reddituale. Sembra ormai ineluttabile parlare sempre e comunque di denaro. Capisco che siamo in crisi, ma non c'è di peggio per chi già in qualche modo deve scontare uno svantaggio, un handicap, una differenza, che sentirsi valutato secondo parametri al ribasso di carattere quasi esclusivamente economico. In un progetto di vita indipendente, come meglio di me sanno argomentare i paladini di questo strumento di emancipazione e di autonomia, si costruisce infatti un mix fra la volontà della persona, le opportunità esistenti, le persone che durante la giornata sono chiamate a garantire le condizioni per realizzare il progetto, e tutto questo avviene costruendo un budget, che è certamente connotato da fattori di spesa, ma non solo da questo. La domanda di fondo, infatti, è: che cosa possiamo fare delle nostre vite? Quali desideri abbiamo? Con chi vogliamo vivere? E dove? Quali orari sono compatibili con la nostra libertà di scelta? E se riusciamo a vivere in modo non dipendente, possiamo davvero ipotizzare il superamento dell'handicap, ossia una vita alla pari? Le nuove tecnologie, la rete, sembrano avvicinare le persone disabili a una serie incredibile di opportunità, anche quando la comunicazione diventa difficile o l'autosufficienza si riduce. Ma se nel ripensare i servizi sociosanitari ci si limita a immaginare condizioni sempre più onerose di accesso e di fruizione, se tutto diventa complicato e ipercontrollato, la conclusione sarà una sola: l'impoverimento non solo economico, ma anche mentale, di raggio d'azione, di ambizioni, di desideri. Torno alla mia condizione transitoria. Più ritardo il mio ritorno all'autonomia piena, più mi accorgo che tendo ad accontentarmi di una vita meno densa, più circoscritta, più scandita dai ritmi dell'assistenza. E penso a quante persone, con potenzialità assolutamente analoghe alle mie, sono di fatto costrette a rinunciare a sogni e progetti di vita, perché qualcun altro ha deciso per loro, per il loro bene. Da troppo tempo leggo e vedo servizi sulla disabilità che hanno i toni del dramma e della sconfitta. Sempre più difficile vedere raccontare un successo, un miglioramento, una novità positiva. Forse è il momento di reagire e di rivendicare normalità di vita, come tutti, senza dover chiedere scusa di esistere. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.corriere.it. Il racconto di una storia esemplare. I disabili veri, dimenticati dallo Stato. In Italia 2.800.000 persone non autosufficienti e tutto il carico ricade sulle spalle delle famiglie. Di Gian Antonio Stella, del 9 febbraio 2012. Un pazzo costa allo Stato 4 marchi al giorno, uno storpio 5,50, un criminale 3,50. Iniziava così un problema del manuale di matematica nella Germania nazista del 1940. Lo scolaro doveva calcolare, senza quei pesi, quanto si poteva risparmiare. Alla larga da paragoni provocatori, ma che razza di paese è quello che taglia i fondi ai disabili? Ed è lecito che si sfrutti fino in fondo, come denuncia il Censis, le famiglie che si fanno carico giorno dopo giorno, spesso eroicamente, dell'assistenza? Pochi numeri presi da un'inchiesta del Sole 24 Ore dicono tutto. Rispetto al PIL, l'Italia spende molto più della media dell'Europa, a 15, per le pensioni, 16,1% contro l'11,7%, come gli altri nel totale del welfare, 26,5% contro il 26%, ma nettamente meno per la non autosufficienza, 1,6 contro 2,1, un quarto di meno. Non bastasse negli ultimi anni, nella scia della scoperta di casi come quello emerso la settimana scorsa al Rione Santa Lucia di Napoli, dove secondo il Mattino 9 su 10 degli invalidi controllati erano falsi, l'accetta si è abbattuta sui costi del pianeta della disabilità colpendo tutti, i furbi, ma più ancora i disabili veri, verso i quali lo Stato era già storicamente molto tirchio. Basta vedere un'analisi di Antonio Misiani. Il taglio delle due voci che più interessano l'handicap, dal 2008 al 2013, il fondo per le politiche sociali precipita nelle tabelle del governo Berlusconi da 923,3 milioni di euro a 44,6. Quello per la non autosufficienza da 300 a 0. Zero! Numeri che da soli confermano il giudizio durissimo del Censis. La disabilità è ancora una questione invisibile nell'agenda istituzionale, mentre i problemi gravano drammaticamente sulle famiglie, spesso lasciate sole nei compiti di cura. Peggio, l'assistenza rimane nella grande maggioranza dei casi un onere esclusivo della famiglia. Scegliamo una storia esemplare, una fra centinaia di migliaia, quella di Gloriano e di sua moglie, Maria Grazia. Lui fa l'elettricista, lei lavorava in una fabbrica tessile finché 28 anni fa. Non fu costretta a mollare per seguire Giulia. La piccola aveva dei problemi, seri. La prima diagnosi fu emessa dopo quasi 4 anni, non per colpa nostra, dalla nascita. Ritardo psicomotorio con deficit cognitivo in paralisi cerebrale minima. Problemi che con il passare del tempo si sono sempre più aggravati. Basti dire che nonostante gli insegnanti di sostegno a scuola e i progetti di recupero, l'assistenza minuto per minuto dei genitori non ha mai imparato a leggere e scrivere. Fatto sta che al secondo accertamento sull'handicap, al 18° compleanno, il responso fu netto, invalida, con totale permanente inabilità lavorativa 100%. Tanto per capirci, spiega la madre, è del tutto non autosufficiente. Ogni consulto, ogni cura, ogni tentativo d'arginare la progressiva deriva della malattia sono stati inutili. Colpa di un'anomalia, pare, del cromosoma 16. Finché nel 2006 il degrado è stato nuovamente verificato. Insufficienza mentale medio grave, in paraparesi spastica, neurologica sensitiva assonale cognitiva, scoliosi e invalidità al 100% con necessità di assistenza continua. Un calvario. Una vita intera inchiodata minuto per minuto, giorno dopo giorno, anno dopo anno a quella missione. Unici momenti di tregua, indispensabili per respirare e non impazzire, quelli in cui Giulia, sia pur sempre più a fatica, veniva affidata a strutture di assistenza tipo le case famiglia. Nostra figlia ha sempre desiderato, sin da piccola, di stare coi bambini prima e poi man mano che cresceva con i ragazzi e comunque in mezzo alla gente. Una soluzione che l'anno scorso aveva permesso a Gloriana e Maria Grazia di fare perfino, evviva, una breve vacanza. Costava 27 euro al giorno alla famiglia, l'accoglienza di Giulia in una comunità alloggio di Abano Terme. Poi, prima di Natale, ci è stato comunicato che il contributo familiare sarebbe salito a 92,68 euro, cioè la quota alberghiera totale. Troppi, per chi riceve dallo Stato, per prendersi cura 24 ore su 24 di quella figlia totalmente disabile, una pensione lorda, mensile, di 270,60 euro, più l'indennità di accompagnamento di 487,39, per un totale complessivo di 757,99 euro. I giornali locali ne hanno fatto un caso, giustamente, di quelle 100-120 famiglie che di colpo si sono viste togliere quel servizio che per molti rappresentava l'unica occasione per staccare un po'. Diventerà un servizio solo per chi potrà permetterselo? si è chiesto il settimanale diocesano La difesa del popolo. Ma la storia della famiglia di Giulia va moltiplicata, come dicevamo, per centinaia di migliaia, dice la pagina. La disabilità in cifre dell'Istat, che in Italia i disabili sono 2.600.000, pari al 4,8% circa della popolazione di 6 anni e più che vive in famiglia. Considerando anche le 190.134 persone residenti nei presidi sociosanitari, si giunge a una stima complessiva di poco meno di 2.800.000 persone. In primo luogo, ovvio, ricorda uno studio della Caritas Ambrosiana, ci sono i vecchi. Secondo un'indagine dello studio Gender, l'Italia spende meno della metà di quanto fanno in media gli altri paesi europei per l'assistenza agli anziani. Risultato? La cura dell'anziano, non più autosufficiente, ricade sulle famiglie. In 2 casi su 3 lasciate a loro stesse, in particolare sono le donne, figlie, mogli, nuore, le indiscusse protagoniste del lavoro di cura. Per i disabili più giovani, spiega il sito superabile.it Pietro Barbieri, presidente della FISH, Federazione Italiana del Sostegno all'Handicap, il quadro è lo stesso. Da noi si spende meno della metà della media europea, a 15, per la non autosufficienza. Il dato comprende sia l'indennità civile che l'assistenza domiciliare pagata dai comuni. Qui non si tratta di prendere provvedimenti più equi. Qui si dice alle famiglie arrangiatevi. E a quel punto sapete cosa accadrà? Che le famiglie cominceranno a chiedere il ricovero per un congiunto non autosufficiente. E a quel punto avremo una maggiore segregazione di persone che non hanno fatto nulla di male e a un costo molto più alto per il paese. Si pensi al costo giornaliero di una degenza. Facciamo 2 conti? Questi disabili non anziani, secondo la FISH, sarebbero circa 400.000. Se la famiglia abbandonata a se stesse fossero obbligate a scaricare i figli e i fratelli sul groppone dello Stato, questo sarebbe obbligato a costruire strutture per un costo minimo, dall'acquisto del terreno alla costruzione fino all'arredamento, di 130.000 euro a posto letto, per un totale di 52 miliardi. Per poi assumere, stando ai protocolli, almeno 280.000 infermieri, psicologi, cuochi, inservienti, per almeno altri 7 miliardi l'anno. Più tutto il resto, un peso enorme, del quale l'Italia di oggi non potrebbe assolutamente farsi carico. E allora ti domandi, possibile che lo Stato non si accorga di quanto si fanno carico al suo posto le famiglie? Lo studio presentato ieri alla Fondazione Cesare Serono e dal Censis, e centrato sulle persone colpite dalla sclerosi multipla e dall'autismo, dice che il 48,5% dei malati ha bisogno di aiuto nella vita quotidiana. Ma il dato oscilla dal 9,5% di chi si definisce lievemente o per nulla disabile all'83% tra i malati più gravi. Bene, le risposte arrivano quasi solo dalle famiglie. Il 38,1% dei malati riceve assistenza informale tutti i giorni dai familiari conviventi. E la percentuale aumenta tra chi riferisce livelli di disabilità più elevati, 62,8%. L'aiuto quotidiano da parte di parenti non conviventi e amici è più raro, 8,1%. E se è minoritario il supporto offerto dal volontariato, 8,4%, solamente il 15,3% riceve aiuto da personale pubblico e solo il 3,3% tutti i giorni. Umiliante. Tanto è vero che le famiglie dignitosamente non chiedono soldi. Nonostante si sobbarchino spese molto spesso insopportabili, chiedono collaborazione. L'assistenza domiciliare è ritenuta uno dei servizi più utili dal 77,5% del campione e il 72,4% ne ritiene necessario il potenziamento. Gli aiuti economici e gli sgravi fiscali vengono dopo. Lo studio presentato ieri dice tutto. La disabilità della persona con autismo ha avuto un impatto negativo sulla vita lavorativa del 65,9% delle famiglie coinvolte nello studio. In particolare, il 25,9% delle madri ha dovuto lasciare il lavoro e il 23,4% lo ha dovuto ridurre. Uno Stato serio, davanti a numeri così, se lo deve porre il problema. Perché sarebbe inaccettabile scaricare ulteriori responsabilità e fatiche e spese e angosce su quelle famiglie. Ci sono già state, come ricordavamo, stagioni orribili in cui disabili, si pensi a certi manifesti tedeschi degli anni 30, sono stati visti come un fardello economico. Mai più. Anche per questa settimana è tutto, da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.